Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:05 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it, sms al 349 238 6666. Adesso tra Sky e il governo sembra davvero scontro aperto. Sapete che il motivo del contendere da qualche giorno è la decisione dell'esecutivo di avere raddoppiato dal 10 al 20% l'IVA sugli abbonamenti della TV a pagamento. Un incremento che porterà per le stime a 270 milioni di euro in più allo Stato, un incremento che Sky ha contestato duramente. È di fatto un aumento delle tasse per 4 milioni e 600 mila famiglie abbonate, secondo la TV di Murdoch. È un aumento delle tasse, tra l'altro, dice appunto la TV di Murdoch, fatto da quel governo che insomma giurava di non volere alzare le tasse neanche di un euro. Per l'opposizione rispunta il conflitto di interessi, insomma un provvedimento fatto dal governo Berlusconi che va a colpire un concorrente di Mediaset. Niente di tutto questo per la maggioranza, semplicemente l'IVA al 10% era un privilegio in vigore da anni che è stato tolto, un privilegio che è stato tolto proprio in un momento in cui insomma bisogna anche tirare la cinghia, in un momento difficile. E allora si colpisce un'impresa, si tassano le famiglie come dicono al Partito Democratico, oppure è la fine di un privilegio, una cosa giusta, una cosa da fare come dice la maggioranza? Il caso Sky Governo, ne vogliamo parlare oggi. Saluto il sottosegretario allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni Paolo Romani. Buongiorno Romani, benvenuto. Buongiorno a voi. Così come voglio salutare il senatore del Partito Democratico Marco Follini. Buongiorno Follini. Buongiorno. Alle 9:09 minuti, 800 24 00 24, la decisione del governo di raddoppiare dal 10 al 20% o di adeguare al 20%, insomma dipende poi dai punti di vista, l'IVA per gli abbonamenti alle TV a pagamento, Sky in rivolta, e che Sky sia arrabbiata come azienda lo si è capito non solo dalle interviste ma da uno spot che è stato mandato, che è stato preparato poche ore e che da ieri gira continuamente per le TV, per tutti i canali satellitari di Sky. Lo spot è questo, ve lo facciamo sentire. In una fase di crisi economica, i governi lavorano per trovare una soluzione che aumenti la capacità di spesa dei cittadini e sostenga la crescita delle imprese. Il governo italiano ha annunciato invece una misura che va nella direzione opposta: il raddoppio delle tasse sul vostro abbonamento a Sky dal 10 al 20%, un aumento delle tasse per 4 milioni e 600 mila famiglie. Questo, anche se durante la scorsa campagna elettorale il governo aveva promesso di non aumentare le tasse alle famiglie italiane. Dal 2003 Sky ha costantemente investito in Italia, trainando la crescita dell'intero settore televisivo, senza utilizzare sussidi da parte del governo, creando migliaia di nuovi posti di lavoro, ma soprattutto offrendo a tutti gli italiani la possibilità di scegliere i programmi televisivi che preferiscono, in piena libertà. Se il Parlamento non lo bloccherà, questo aumento delle tasse sul vostro abbonamento Sky entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio. Se credete che questa decisione sia sbagliata, scrivete una mail a segreteria.presidente@governo.it per dire al governo la vostra opinione. Allora, questo è lo spot di Sky. Sottosegretario Romani, che ne pensa? L'avrà visto anche lei? Rimasto, lo giudica uno spot, una campagna aggressiva? Beh, un po' aggressivo è sicuramente, ma io ribadisco il concetto che ho espresso nei giorni scorsi. Nel 95 fu immaginata un'agevolazione sull'IVA per incentivare la diffusione della piattaforma satellitare e cavo, si disse allora, che coinvolgeva Telepiù e Stream. Sono passati 13 anni e capisco il Ministero dell'Economia che quando vede le tabelle con le IVA agevolate incontra l'IVA agevolata al 10% rispetto a un 20% che è diffuso in tutto il resto del meccanismo economico finanziario delle televisioni e decide di adeguarlo. Non mi sembra una misura che vada a penalizzare qualcosa, nel senso che un'IVA agevolata è un'agevolazione rispetto a una piattaforma innovativa e di innovazione come quella satellitare. Sono passati 13 anni, ho l'impressione che nel momento in cui tutti gli italiani stringono la cinghia per superare la crisi economica che è molto forte, si possa, ritengo che sia legittimo chiedere, che si possa chiedere a un'azienda ormai solida, ormai di mercato, presente nel mercato con forti utili, di adeguarsi o di rinunciare a un'agevolazione che fu immaginata allora per stimolare la diffusione di una piattaforma che oggi è largamente diffusa. Questo è il ragionamento di fondo. Sì, il problema è che Sky ha già detto, e lo sentiamo anche nello spot, si riverserà questo aumento sugli abbonati, quindi magari non era questo l'idea, era quella di togliere un privilegio per il governo, però il dato di fatto è che gli abbonati ora avranno un aumento della bolletta. Da qui l'accusa di essere una nuova tassa riversata su 4,6 milioni di famiglie. Parliamo di una TV a pagamento. Io penso che diritto, ammesso che di diritto trattasi per gli italiani, è di godere e di usufruire della televisione gratuita. Sky è una TV a pagamento, è un'opzione che le famiglie possono avere. Sky mi pare che recentemente abbia già aumentato di 2 euro, quindi del 50% del probabile incremento, la tariffa degli abbonamenti, e quindi se deciderà Sky di riversarlo sugli abbonati è una decisione aziendale, può darsi anche che Sky decida di non riversarlo completamente sugli abbonati, però ripeto, parliamo di un'opzione che riguarda 4 milioni di famiglie, non riguarda tutti gli italiani. La televisione è, come si dice, un servizio universale e tale deve essere garantito, lo stiamo facendo nel digitale dove addirittura diamo alle famiglie un contributo perché possono adeguarsi alla grande innovazione del digitale terrestre, la televisione satellitare a pagamento è una roba a mio avviso diversa. Si parlava di un Berlusconi disposto ad arrivare a un 15%, una mediazione, e poi questi spot, questo leggo oggi su Repubblica, avrebbero irritato non di molto insomma sia Tremonti sia Berlusconi, e che quindi a questo punto la linea sia no, a questo punto non c'è mediazione, ci abbiamo messo la faccia, andiamo avanti. Lei conferma che questa è la linea del governo? Ma guardi, si è evocato in questo caso il conflitto di interessi che a mio avviso poco nulla ha a che fare con questo problema, tant'è vero che questo adeguamento al 20% per tutta la televisione satellitare e non riguarda anche Mediaset, quindi non è un problema di conflitto di interessi. Sicuramente la campagna è molto aggressiva contro un governo, poi una campagna che soprattutto non dice le cose come stanno, perché se avessero detto dal 95 godiamo delle agevolazioni al 10%, sono 13 anni che usufruiamo di questo vantaggio, riteniamo di doverne usufruire ancora per questi e questi motivi e quindi siamo contrari, questa sarebbe stata una campagna corretta dal punto di vista dell'informazione, visto che Sky fa informazione. Invece hanno fatto una campagna solamente di del tipo che abbiamo visto, assolutamente unilaterale. Quindi io ritengo francamente giusto e giustificato il fatto che il governo vada avanti. E allora Marco Follini, senatore Follini, da parte del Partito Democratico la posizione da parte sua qual è? Più evocare il conflitto di interesse, che Romani dice non c'entra molto, ci spiegherà invece secondo lei se c'entra davvero, o più la difesa di un'azienda, come ha detto Veltroni, e quindi questo aumento delle tasse che si trovano gli italiani? Ma io non credo che i partiti debbano schierarsi a difesa delle aziende, né che le aziende debbano diventare partiti e se stesse. A me pare che i problemi siano due, anzi tre. Il primo problema è che il governo, questo governo, si era proposto all'insegna di un programma molto semplice: meno tasse, più consumi. Con questa decisione ha imboccato la strada che porta nella direzione opposta. Il secondo problema è che un pizzico di conflitto di interessi c'è, perché è chiaro che si legifera su di un campo in cui il Presidente del Consiglio con le sue aziende è massicciamente presente. Ora può darsi che l'intenzione non fosse così bieca come è stata descritta, ma tocchiamo un ingranaggio delicatissimo che oltretutto è fondamentale proprio dal punto di vista della fiducia nella neutralità, nella terzietà di chi ha in mano il potere politico. Quindi l'ingranaggio è particolarmente delicato. Ho visto che Stefano Folli oggi descrive il conflitto di interessi come un drago che dorme nella palude e che ogni tanto rispunta. Che quel drago si è risvegliato. Esatto, ogni tanto rispunta, scrive oggi Stefano Folli, e da questo punto di vista sottosegretario Romani, scrive proprio Folli oggi, ma vale la pena scatenare questo risveglio del conflitto di interessi che lei dice non c'entra, però sta di fatto che è ritornato prepotentemente alla ribalta sui giornali, voglio dire, e allora Folli si chiede se conviene al governo Berlusconi risvegliare questo drago che dorme, come l'ha definito Follini. Lo dico anche all'amico Marco, in esordio di legislatura è stato evocato di nuovo il conflitto di interessi quando in Parlamento si votò quello che poi è stato comunemente chiamato l'emendamento Romani, che falsamente fu definito a favore di Rete 4 e che invece dava una risposta all'Europa. Non è possibile immaginare che un governo, qualsivoglia esso sia, non possa legiferare in questa materia. Allora fu evocato il famoso drago che dorme nella palude, ingiustamente, a mio avviso altrettanto ingiustamente, viene evocato oggi. Io penso che una misura di questo tipo, che ripeto va a penalizzare anche le aziende del Cavaliere, quindi è orizzontale su tutti, ma soprattutto è un problema di giustizia. Marco Follini mi deve dimostrare, visto che sostiene una tesi contraria, che sia obbligatorio oggi, dopo 13 anni, consentire un'IVA agevolata a un'azienda che ha il monopolio per di più satellitare del tipo a pagamento in Italia, perché ancora ha bisogno di un incentivo di questo tipo. Se mi dimostrano questo, parliamone. Ho l'impressione che sia difficile dimostrarlo. Non esiste una dimostrazione scientifica. Tutto è, come dire, opinabile, tutto è discrezionale. Siamo sul terreno politico. Però alla stessa stregua, se la parola d'ordine è quella dei sacrifici e soprattutto dei sacrifici da parte delle aziende, diciamo, più facoltose, si sarebbe potuto operare nel campo dei costi della concessione delle frequenze televisive, ad esempio. Oppure, cambiando campo, si sarebbe potuto operare sul terreno delle rendite finanziarie, cioè sono mille gli strumenti di cui un governo dispone per intervenire. La scelta di intervenire così massicciamente su un concorrente particolarmente aggressivo, intendo dal punto di vista del mercato, sì, nel campo televisivo, è chiaro che sembra fatta apposta per evocare sospetti e forse anche qualche fantasma, ma sospetti fondati mi pare che non siano così lunari. Senta, tra l'altro Follini, vedremo come andrà in Parlamento. Le chiedo, siccome lei come premessa ha detto una cosa che è interessante, forse si è colta poco, ha detto non è giusto che i partiti difendano le aziende, vede in questo anche, se vuole, una critica a quello che ha detto ieri Veltroni, che ha detto invece si colpisce un'azienda? Io invoco un principio generale e ne approfitto invece per segnalare il terzo problema, perché non vorrei essere troppo unilaterale. Il terzo problema è che io ho trovato questa campagna di autodifesa di Sky assolutamente sopra le righe, mentre io credo che noi in Parlamento dovremmo adoperarci per cancellare quella norma. Io sono contrario e il mio comportamento parlamentare sarà conseguente, mi batterò perché l'IVA agevolata resti. Tuttavia sono un po', come dire, spaventato quando vedo che le televisioni adoperano a vantaggio di se stesse in modo del tutto autoreferenziale quella potenza di fuoco. Ora, lo abbiamo visto in passato in altre campagne, anche all'epoca da parte di Fininvest, come si chiamava allora, però trovo che in questo ci sia, come dire, un andar sopra le righe che dovremmo cercare di contenere, di evitare, perché appunto è l'evocazione di gruppi di interesse che diventano politicamente fin troppo forti, anche perché usano e un po' abusano dei loro poteri. Su questo siete d'accordo. Bisogna dire, sottosegretario Romani, davvero lei non crede che ci sia un rischio boomerang? Voglio dire, 4,6 milioni di famiglie italiane, non sono comunque, lei dice, non sono la maggioranza, ma non sono neanche poche, si vedranno aumentare sempre che verrà la ricaduta tutta su di loro. Abbiamo fatto anche dei calcoli, da non so, chi paga 50 euro di canone oggi ne pagherà 54,54 al mese, sempre che tutta l'IVA ricada sugli abbonati. Chi paga 20 euro pagherà 21,81 al mese. Questo c'è il rischio, voglio dire, che questo si riversi, almeno a leggere dalle cronache di oggi, all'interno del governo c'è il rischio che questo possa diventare, insomma, un'arma forte, forse appunto una campagna aggressiva ma rischiosa anche dal punto di vista del perdita. Due considerazioni molto semplici. La prima, io non capisco perché la TV a pagamento debba godere di una IVA agevolata quando tutti i beni di primissimo consumo, lo diceva l'altro giorno Gaspari, hanno l'IVA al 20%. E questo non riesco francamente a capire. Ce l'ha già detto. Cioè, i pannolini, il latte per i bambini hanno il 20%, la TV a pagamento deve avere il 10%. Io non lo so, non lo capisco. e quindi francamente non sono d'accordo. La seconda cosa, lo dico ma non dovrei dirlo, ma lo dico lo stesso, il governo Prodi già ci pensò che fosse eccessiva questa agevolazione, tant'è che ci fu una durissima trattativa con Visco, tra l'allora governo Prodi e Visco e SCAE. Poi la maggioranza di allora non garantiva probabilmente il passaggio in Parlamento, perché le lobby in Parlamento, come si sa, sono ben rappresentate, e non parlo solo di quelle televisive, e quindi non se ne fece nulla. Gliela ribalto così però, onorevole Romani, che effetto le fa dopo che il centrodestra ha detto Visco era visto come Dracula, adesso dire, insomma, no, evocare Visco come dire anche lui. No, io non evoco Visco, lo dico perché l'altra parte oggi fanno difesa d'ufficio, mi fa piacere che Follini dica le aziende non devono essere rappresentate dai partiti e le aziende poi non devono diventare partiti loro stessi, ma dico che già su questo problema c'è stato e c'è largo dibattito, quindi non c'è una versione assolutamente unilaterale come sembra esserci oggi, il centrodestra che si accanisce su Sky e il centrosinistra che lo difende. Già allora ci fu una valutazione complessiva sullo squilibrio di un'IVA agevolata a favore di una piattaforma satellitare che durava da troppi anni. Le agevolazioni si fanno quando si incentivano le aziende a investire, una volta che sono stabilizzate, una volta che il mercato corrisponde, tutte le aziende devono essere trattate nello stesso modo, e non ho l'impressione che l'attivo a pagamento, se anche fosse un bene primario, sia un bene primario come lo sono tutti i beni primari che poi le famiglie italiane vanno a comprare nei supermercati. Senta, sottosegretario, mi può chiarire un punto? Perché Marco Mele, che ci raggiungerà nella seconda parte su Sole 24 Ore, ha scritto che nel 97 questa norma dell'IVA agevolata al 10% non menzionava il digitale terrestre ma solo il satellite e via cavo. Siccome lei dice che invece vale anche per Mediaset, no, ci chiarisca no, questo vale. Punto? Le tessere prepagate sono già al 20%, sì. L'abbonamento alla TV digitale viaggiava e viaggia tutt'oggi come Sky al 10%, quindi ci sarà l'adeguamento anche per quello. Ci sarà l'adeguamento quindi anche tutta per l'abbonamento. La televisione, che trattasi di pubblicità, trattasi di abbonamenti, trattasi di prepagate, va tutto al 20%. L'altra posizione, Libero, oggi scrive che per controbilanciare questa mossa che rischia di tramutarsi in qualcosa di impopolare, Berlusconi starebbe pensando di abbassare il canone RAI, non il blocco come è già stato stabilito, il blocco del canone RAI, ma abbassarlo. Lei che ci dice? Allora, ho sottoposto io al Presidente del Consiglio, se vuole questa può essere anche una notizia. Sì. Siccome siamo di fronte a un'evasione media del 27% di evasione, e siccome l'evasione purtroppo è molto più presente al sud che al nord, al sud in alcune regioni viaggiamo intorno al 45%, al nord siamo ovviamente avendo una media del 27% a livelli molto inferiori, quindi rischia anche di diventare per certi versi una tassa regionale, e siccome l'evasione è eccessivamente alta, ho proposto al Presidente del Consiglio di studiare un meccanismo che consenta, abbassando e di parecchio il canone, di farlo pagare a tutti, pagare meno per pagare tutti. Come ci sulla bolletta? Ci sono dei meccanismi che sono allo studio, lei l'ha citata, ci sono anche altri meccanismi. Io penso che siccome il canone è una delle tasse più odiate dagli italiani, almeno che sia una tassa equa, nel senso pagata da tutti, e che non paghino i soliti noti. Quindi uno strumento potrebbe essere la bolletta della luce, metterla nella bolletta della luce. C'è uno strumento che viene utilizzato in Grecia, quello che lei sta citando, che consente di abbinare il canone alla bolletta elettrica, quindi sta all'utente dimostrare che possedendo un impianto elettrico in casa non ha la televisione, lo può dimostrare per l'amor di Dio, però è un'auto di autocertificazione, sì. Esattamente. Avviso, questo è un servizio che facciamo al servizio pubblico, che ha bisogno delle risorse del canone del sistema misto italiano, ma c'è bisogno anche che, siccome poi il canone è una imposta, e quindi è una tassa, e quindi non pagarla significa non pagare le tasse, è giusto che la paghino tutti nella stessa misura. In questo caso la misura potrebbe essere nettamente inferiore. Senatore Follini, lei ha già detto che in Parlamento voterà, insomma, come il Partito Democratico, per mantenere quest'IVA agevolata. Vede delle possibilità di alleanze? Per esempio si dice che Alleanza Nazionale sia un po' stupita e sia rimasta sorpresa da questa decisione del governo presa senza consultare appunto AN. E quindi le possibilità di alleanze trasversali per affossare questo provvedimento, oppure crede che non ma ci sarà? Purtroppo in Parlamento si vota piuttosto per blocchi, quindi non vedo grandissimi margini. Piuttosto colgo dentro la maggioranza alcune voci dissonanti e non escludo che possa maturare, diciamo, in corso d'opera una svolta anche dalle loro parti. L'idea di un voto a sorpresa che mette insieme l'opposizione parti di maggioranza in dissenso mi sembra meno probabile. Mi sembra possibile un ripensamento della maggioranza, questo sì. Forse Romani ha più forse elementi di me in materia, però vedo che le voci, diciamo, dubbiose, critiche, tendono a crescere. Allora, secondo quanto sono le cronache, il ripensamento era possibile ed era già quasi, diciamo, previsto, ma ripeto, secondo quelle note di cronaca politica, che poi bisogna vedere quante conferme hanno, prima di questi spot. Sottosegretario, lei ci ha già detto che adesso il governo va avanti, ma è davvero impensabile un ripensamento su questo? Tremonti pare che abbia detto: o la mantiamo così o la teniamo al 20% o lascio, mi dimetto. Beh, io adesso non so se su questo argomento siamo arrivati addirittura allo showdown di questo tipo. Però è possibile adesso il governo abbia intenzione di mantenere, d'altra parte è un pacchetto che è in discussione in Parlamento, il Parlamento è ancora sovrano, siamo ancora in una repubblica parlamentare, dico ancora ovviamente in termini polemici rispetto a chi dice che non lo siamo più, e quindi ritengo che il Parlamento, se vuole, ha tutta la possibilità di cambiare. Ho l'impressione che per adesso il governo intenda mantenere la linea che ha avuto fino ad oggi. Le chiedo ancora, perché poi so che la dobbiamo liberare, sottosegretario, sì. La vicenda della porno tax, sappiamo, è stata reintrodotta, vale a dire la porno tax su chi produce, commercializza, insomma, è un 25%, 25% sui ricavi, sì. Sui ricavi di chi vende materiale pornografico. Questa è passata un po' sotto traccia, per esempio, per la TV a pagamento, visto, ma sappiamo che anche su questo si fonda molto dell'offerta di Sky. Lei è d'accordo innanzitutto non tanto per la, diciamo, la vicinanza di governo, ovviamente lei fa parte del governo, ma è d'accordo anche sull'idea in sé di tassare il materiale pornografico, e perché, se sì? Ma diciamo che non dovrebbe essere un'industria che deve essere agevolata, per certi versi non ho l'impressione che sia un polo della cultura l'industria pornografica, sia che trattasi di produzione del circuito pornografico tradizionale, quello delle edicole, sia che si tratti della trasmissione di film pornografici. È un atteggiamento culturale, se si vuole, sul quale si può discutere. Il governo ha ritenuto, ma questo, le ripeto, è un'idea del Presidente del Consiglio, quindi c'è stata una volontà, diciamo, complessiva di attivare questa tassa. Mi pare che gli importi complessivi non siano così clamorosi, non lo so cosa ne pensi Follini, vedo che la cosa, questa proposta è passata senza nessun tipo di polemica, io penso che è una cosa sulla quale possiamo anche se ragionare, ma mi sembra assolutamente giustificata, cioè in un momento, ripeto, in cui tutti gli italiani devono stringere la cinghia, è ovvio che l'economia, che il Ministero dell'Economia va a cercare risorse laddove è più ammissibile rintracciarle. Nel primo caso parliamo di agevolazioni che non hanno più motivo di essere, nel secondo caso si colpisce, fra virgolette, un settore che sicuramente non rappresenta la cultura di questo paese. E non è da incentivare. Sono 200 milioni di euro le entrate stimate da questa porno tax. Follini, che ne pensa lei? È giusto il principio? Mi pare che su questo possiamo essere moralmente bipartisan. Moralmente bipartisan, va bene. Però volevo fare, se posso, un passo indietro. Dica. Perché il tema del canone RAI è un tema che secondo me dovremmo affrontare in una visione più complessiva. Noi abbiamo, come dire, una lunga tradizione che fa del canone una tassa, e tuttavia è una forma di finanziamento che forse sarebbe più appropriato individuare come abbonamento alla RAI, nel senso che poi le persone possono comprarsi il televisore, farsi sigillare i canali della RAI, guardare solo altri canali, e tuttavia sono ugualmente indotti a pagare il canone, o meglio indotti, costretti a pagare il canone. Allora, è evidente che noi non è che possiamo colpire la RAI cambiando di punto in bianco questa regola. Sì. Possiamo cambiarla in una revisione generale delle fonti di finanziamento e degli indici di affollamento pubblicitari, però io non escluderei che si prendesse questa strada, perché sarebbe una strada di maggiore trasparenza, consentendo ai cittadini di decidere come sostenere, come finanziare la loro televisione, ma senza imporre loro il passaggio obbligato del canone RAI a chi paradossalmente decida di non seguire quella programmazione televisiva. Cioè dobbiamo restituire una maggiore libertà, e dentro questa maggiore libertà, secondo me, c'è anche la possibilità di rivedere la forma del canone. Naturalmente, insisto, è una strada che si può percorrere, a condizione anche qui che non rispunti il conflitto di interesse, cioè che non diventi un modo per colpire la principale azienda che fa concorrenza all'azienda del Presidente del Consiglio. E torniamo al drago. Al drago lì che si risveglia. Io mi devo fermare qui per la pubblicità. Ringrazio sia il sottosegretario Paolo Romani, sia il senatore Marco Follini. So che ci devono lasciare ovviamente per impegni. Voglio salutare Marco Mele del Sole 24 Ore. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao, ci ciao. Spiegherà tutto. Uno dei massimi esperti in Italia, non solo collega, ma insomma di tutto che è quello che è questo mondo. Saluto anche Marco Crispino, che è amministratore delegato di Conto TV. Buongiorno Crispino. Buongiorno. Conto TV è una delle TV che trasmette sulla piattaforma Sky, insomma fa anche, sta prendendo anche molte partite di calcio, l'ultima di Coppa UEFA del Milan, credo. Allora, ci sono tanti ascoltatori, vediamo cosa ne pensano. L'800 24 0024. Davide da Milano, buongiorno. Buongiorno, sono io? Dica. Sì, certo, lei. Buongiorno, spenga la radio, gentilmente spenga la radio, dica. No, devo fare una precisazione, chiedo scusa, non per darmi un tono, ma peraltro forse la redazione non ha spiegato. Certamente sono un ascoltatore, ma parlo a nome di un'associazione che è l'Associazione degli Editori di DVD. Marco Mele mi conosce, Marco, ah, ciao. Perfetto. Per molte volte insomma ci siamo confrontati su questo tema dell'IVA. Non so se posso fare un intervento qui ora o se... Dica, certo, dica. In Italia si comprano e noleggiano DVD per 1 miliardo di euro l'anno e paghiamo l'IVA al 20%. Da sempre, da quando il mercato è nato, da quando è arrivata prima Telepiù e poi Sky, naturalmente il nostro mercato è disceso molto, perché con una condizione d'IVA agevolata, naturalmente questo concorrente, e con la grande tecnologia, con la grande capacità, nessuno la mette in dubbio, il nostro mercato ha sofferto molto. Allora, se capisco che noi abbiamo un IVA al 20% sui supporti, perché la vendita di un bene fisico può anche essere una cosa diversa, l'attività di vedere un film noleggiandolo in videoteca è esattamente la stessa attività che fa qualcuno vedendo un film tramite la televisione. Quindi lei dice non ci trova niente di... No, noi abbiamo sempre invocato la par condicio fiscale per poter competere a parità di condizioni con il termine pagamento e con gli altri, e quindi noi auspichiamo che questo possa consentire di aprire un dibattito, almeno di coinvolgere noi ed avere, ripeto, non per la vendita, che mi rendo conto sono vincoli anche a Bruxelles, è molto più complicato, ma almeno per il noleggio dei DVD, una parequazione che ci sembrerebbe assolutamente... Va bene, grazie per il suo intervento. Andiamo a Catania da Arturo. Buongiorno Arturo. Buongiorno, mi scusi, buongiorno a tutti innanzitutto. Volevo chiedere una cosa, io volevo fare questo. Visto che viviamo un momento di crisi, bene, allora io credo che sarebbe stato più opportuno intervenire efficacemente su chi i soldi ce li ha. E soprattutto volevo dire questo, che sarebbe stato più giusto, per evitare il sospetto del conflitto di interesse, fare entrare questo in un qualcosa di più largo, praticamente. Perché non si aumentava, per esempio, l'IVA sui beni di lusso? Parlo di gioiellerie, di moda, per esempio aumentare anche l'IVA sui mega yacht, aumentare l'IVA sulle auto di lusso, e a questo punto anche possibilmente aumentare anche l'IVA sarebbe stato molto meglio. Ma aumentare l'IVA semplicemente ed esclusivamente su questo 10%, io sono anche un abbonato Sky e non vivo di reddito alto, e naturalmente dà questo sospetto. Poi l'ultima cosa sul canone Rai, scusi, il canone Rai un po' tutti non siamo... è giusto, anche potrebbe essere pagare il canone Rai, però quello che ci fa vedere la Rai è i soldi che spreca la Rai. Questa è una cosa che a noi telespettatori effettivamente... Quindi la vede come una ritorsione. Quando noi vediamo, lei dice non pago il canone, non sto dicendo che lei non paga il canone, ma... sì, quando noi sappiamo che un opinionista della cosa dell'Isola dei Famosi prende 4.000 euro lordi, anzi lo scrivono anche sui giornali, vabbè, per un intervento di 2 ore. Questa è una... Quindi cosa, sarebbe che cosa? Mega stipendi. Ma dunque Arturo, venga alla conclusione, sarebbe una ritorsione, cioè non pago il canone Rai perché sprecano soldi. Questa sarebbe... Lo vediamo sicuramente in questo momento di crisi, io questo capisco. No, grazie per il suo intervento. Allora Marco Mele, prima il sottosegretario Romani ci ha detto innanzitutto che varrà anche per Mediaset. Tu avevi posto questo dubbio, visto che nel 97 non c'era scritto che valeva per il digitale terrestre, invece dice varrà anche anche per gli abbonamenti, insomma ha chiarito che vale tutto anche per Mediaset. Cos'è questa? Una polemica pretestuosa? Si sta parlando di 4-5 euro di aumento al mese per chi ha un abbonamento di 50 euro, oppure cosa cova sotto secondo te? Ma no, cova sotto, intanto come stanno le cose, se no non si capisce. Dunque nel 95, quando venne varata la norma, era una norma a favore della Pay TV in quanto tale. Nel 97 venne precisato via satellite e cavo, ma non c'era il digitale terrestre, quindi non è un favore fatto a qualcuno contro qualcun altro, era fatto a favore delle PTV che esistevano per cercare di farle crescere e diffondere, in quanto si ritiene che la PTV crescente poteva portare risorse per esempio al cinema, alla fiction, e poi bisogna vedere poi quanto sia vero. Mediaset, quando ha lanciato la sua Pay TV via digitale terrestre, ha usato due forme diverse: le schede prepagate, su cui l'IVA del 20%, quindi non sono coinvolte, in un secondo momento ha aggiunto un pagamento, un canone mensile per avere canali gallery e poi il Disney Channel. Su questo ha messo l'IVA del 10%, ritenendo che venissero inclusi nel provvedimento del 95 a favore delle Pay TV, essendo questa Pay TV e non Pay Per View, in cui certo, si paga per certo la singola partita o per il singolo film, per cui è coinvolta anche Mediaset, anche ovviamente rispetto a Sky, su una parte molto minore del mercato, le cifre che vengono date, per esempio ieri ha detto Veltroni che coinvolgerà per il 92% Sky e l'8% il resto, è veritiera? No, penso sia, sì, non l'ho fatta, perché nel senso che in questo mercato non è che ci sia una trasparenza di cifre tale per cui di Sky e Mediaset dicono esattamente quanto guadagno dalla Pay, quanto dalla Pay Per View, quanto dalle luci rosse, per cui non si sa. Penso che sia una proporzione abbastanza verosimile. No, sì, è verosimile, sì, non ci sono diciamo le cifre consultabili ufficiali, insomma. Vorrei chiedere a Marco Crispino, come detto amministratore delegato di Conto TV, che ne pensa lei di questo aumento dell'IVA? Anche Follini del Partito Democratico prima ci ha detto forse da Sky una campagna un po' sopra le righe, lei che dice? Ma sicuramente adesso io la guardo sempre in termini di antitrust, no? Di concorrenza sleale. La differenza nella fatturazione, da quello che mi hanno spiegato i miei consulenti appena... Pronto? Sì, la sentiamo benissimo. La differenza nel fatturare col 10 o col 20% di IVA, da quello che mi hanno spiegato i miei consulenti quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro, stava essenzialmente nell'avere o non avere i dati dell'abbonato. Per cui Sky, che fattura tutto l'abbonato, anche la Pay Per View, che io sappia, la fattura al 10. Okay, non è questione di Pay Per View o Pay TV, sta semplicemente nell'avere il dato dell'abbonato e quindi nel fatturare direttamente all'abbonato. Mediaset lo fa solamente per le formule di abbonamento tipo la EasyPay, diciamo quelle formule nuove, per cui anche Mediaset sta andando su questa formula di fatturazione all'abbonato, sicuramente per risparmiare il 10. C'è una grossa differenza sicuramente, perché Sky fattura tutto in quel modo e perché Sky è il monopolista, per questo... Anche se Mediaset è grande e sta crescendo tanto, credo che Sky fatturi ancora almeno l'85% sì, del movimento di chi vota. Ecco, ma questo adeguamento lei come lo vede? È la fine di un privilegio, ma, come dice Roma? Io sono 2 anni almeno che ogni volta che vado in Agi come antitrust dico non è giusto che loro paghino il 10% di IVA e io il 20%, semplicemente perché io non ho i dati dell'abbonato. Per cui io speravo magari in un adeguamento per noi al 10. Vabbè, voleva quello che secondo lei è un privilegio, lo voleva anche per sé, insomma. Se ci deve essere, deve essere un privilegio per tutti, altrimenti meglio 20 per tutti, visto che tanto io c'ero già abituato al 20, da questo punto di vista. E allora, sentiamo le informazioni sul traffico, poi rientro con lei Crispino, con Marco Mele e anche con gli ascoltatori. Vorrei capire anche qualcosa che ci ha detto Romani sul canone da Marco Mele, insomma, la possibilità di far pagare il canone in modo diverso, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'evasione fiscale di questa imposta e quindi far pagare magari meno di canone, ma tutti. Andiamo a Milano da Arrigo, buongiorno. Arrigo. Sì, buongiorno. Ma sembra che sia una questione molto capziosa, tanto per poter attaccare il governo. Io non sono pro-governativo a tutti i costi, ma questo aumento riguarda veramente una fascia di persone che possono permettersi di pagare questi 2 euro in più al mese. Oltretutto, voglio dire, io pago il canone, dovrei pagare altri 50 euro per vedere altre informazioni che mi è stata tolta. Io non sono un appassionato di calcio, per me il calcio potrebbe non esistere. Però è la sua scelta, però insomma, molti, 4 milioni e 600 mila famiglie. Oltretutto devo pagare di più per vedere quello che mi è stato tolto dalla TV pubblica, che pago, e ho la Formula 1 che fra un po' finirà anche questa su Sky, a quanto per cui dovrò pagare per vedere una cosa per la quale comunque pago. Ma al di là di questo, i signori di Sky evitino di mandarmi un chilo di carta ogni mese per farmi abbonare. Non mi abbonerò mai a Sky. Vabbè, insomma, però questa è una sua arrigo. Diciamo che anche l'opposizione dovrebbe occuparsi del petrolio che costa 48 dollari al barile e noi paghiamo, continuiamo a pagare 1,20 euro il gasolio. Sì, dovrebbe occuparsi di altre cose, la pasta e il pane, che mi sembrano argomenti un po' più alla portata di tutti, che continuiamo a pagare altissimi quando il prezzo della farina è sceso, c'è stata una speculazione a livello mondiale spaventoso. Stiamo parlando di cose molto più sulla molto pelle più delle persone che non Sky o Mediaset. Va bene, grazie Arrigo, è stato chiarissimo nel suo intervento. Marco Mele, Romani, ci ha detto... Dicevo sulla questione del canone, ha detto che lo paghino, c'è la proposta di farlo pagare in modo diverso, per esempio in Grecia si paga sulla bolletta, in modo che riduciamo l'evasione e lo paghino tutti. Da quante volte si sente, da quanti anni si sente parlare di questa cosa, poi c'è da dire che contro il canone un po' tutti gli italiani la vedono come un'imposta un po' vergognosa. Si cambierà mai qualcosa in questo senso? Ma se si vuole cambiare, la RAI lo propone da tempo di passare al sistema greco, di pagare il canone sulla bolletta elettrica. Certo. I consumatori sulla bolletta che cosa ne pensano? Perché arriva una bolletta e lì a quel punto è chiaro che se si evade il canone si stacca la luce, per cui praticamente diventa per molte famiglie reali, circa il 20-25% che non paga il canone, ci sarà una bolletta elettrica notevolmente più gravosa. E a quel punto non so se il discorso diventa sempre quello dell'ultimo ascoltatore che ha parlato a Milano, dice perché devo pagare per delle cose che mi sono state sottratte. A cui vorrei dire solo una cosa, anche controcorrente: oggi l'informazione è come il pane e la pasta, cioè non può oggi in questa società nel 2008 avere un'informazione libera, pluralista, corretta, completa, secondo me vale quanto il pane e la pasta, anche se certo la pancia è la prima esigenza, però su qualsiasi materia l'informazione che si ha è indispensabile per poi poter agire e modificare la situazione sulla benzina, sul pane, altrimenti non è possibile. In questo senso l'attenzione dei politici e l'attenzione anche della classe dirigente e anche dei giornali, secondo me, non è sproporzionata invece su queste vicende e in genere sulle vicende televisive, perché la televisione in Italia è al centro del sistema dell'informazione. Sulla vicenda della porno tax, vorrei chiedere a te, Marco, un aspetto tecnico, voglio dire, perché anche qui non ci sono dati, però qualcosa di stima c'è, e poi voglio chiedere anche a Crispino, la cui TV insomma veicola molto di materiale pornografico. Sì, Mele, c'è qualche calcolo su perché per esempio è passata più sotto traccia? Cioè questa vicenda dell'IVA, del raddoppio dell'IVA, ha un po' azzerato quello che secondo me è un altro invece provvedimento che andrà a impattare dal punto di vista dei numeri per la TV a pagamento? Perché come non si parla del porno, non si parla nemmeno della porno tax, è un fatto di convenienza sociale. Sì, di pruderie, insomma. Non se ne parla di pruderie, ma è un fenomeno che c'è, che esiste, che subisce un introito supplementare del 25%, che può essere giusto, non giusto, eccessivo, ma che sicuramente ha un impatto su Sky, ma non solo su Sky, in questo caso su una pluralità di soggetti. Si fa anche sul digitale terrestre, lo fanno anche alcune televisioni locali sul digitale terrestre, e se si fa sul satellite. I calcoli ancora no, perché bisogna vedere il testo, le circolari, bisogna capire esattamente come si applica, come si versa, in che tempi, quindi forse ne sa più Crispino, non lo so. Sì, da questo punto di vista, Crispino, che ne pensa? Voglio dire, la porno tax, lo vogliamo ricordare, 25% sui ricavi di chi insomma produce, veicola, veicola materiale pornografico, secondo il governo porterà a un 200 milioni di euro questo prelevo di aumento di entrate nelle casse dello Stato. Ovviamente che cosa succede? Che se c'è una tassa per chi produce materiale pornografico, in questo caso lei, Crispino, veicola anche... Per chi produce, per chi distribuisce, perché sì, produrre certo. materiale pornografico è vietato. No, cioè, certo, sì. Per questo mi fa anche ridere. Sì, no? Sì, no, per distribuire... No, ho usato io il termine sbagliato. Per la no, distribuzione... No, io facevo un... Sì, ma tanto lo si sa... Lo... ironizzare sul fatto che mettono le tasse su quello che viene. No, ma lo sa Crispino che molti poi produttori producono all'estero appunto per questo sì, motivo. Appunto, lei che ne pensa, voglio dire, perché questo rischia secondo lei di fare aumentare, per esempio, molto pragmaticamente, avete pensato di poter aumentare, se entreranno in vigore queste norme, gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti? Allora, noi abbiamo ancora, come ha detto Mele, giustamente, ancora non si è capito cos'è questa pornotassa. Per cui non sappiamo quanto va ad impattare, per cui non abbiamo neanche capito se... Beh, glielo ho detto, le cifre è il 25%, le cifre che si stima di prendere dal mercato del allora, nostro... La cifra che si stima, secondo me, è assolutamente esagerata, perché non riusciranno mai a prenderla, per il semplice fatto che il fatturato del porno non lo fanno più non lo fanno né DVD né le televisioni, ma lo fa internet, dove internet credo che sia assolutamente incontrollabile. E vabbè, questo che sì. riusciranno mai a prendere soldi da un sito internet. Però ci sono, c'è anche chi lo veicola attraverso le televisioni, lei per esempio. Assolutamente, noi lo veicoliamo attraverso le televisioni, a differenza di Sky, diciamo, noi abbiamo un'offerta che è molto low cost, per cui se dovessimo aumentare del 5% neanche se ne accorgerebbero i nostri clienti, perché cioè, significherebbe passare da 36 a 37, non so, in 6 mesi, insomma. Però ripeto, non abbiamo ancora capito quanto va a impattare veramente, e quindi non avete fatto considerazioni su quello che no, potrà... Stiamo aspettando i testi definitivi, anche perché bisogna capire come riuscire a capire qual è il consumo porno e qual è il consumo per il calcio, ad esempio, perché nella colonia Smart Card, ad esempio, sul digitale terrestre, sul satellite con un mio decoder, il cliente compra da solo col telecomando, per cui sposta il credito sulla Smart Card e poi acquista col telecomando. Qua quanto ha comprato di porno, quanto ha comprato di calcio, boh, questa è pura... E quello, allora, andiamo a Roma da Alberto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Dunque, niente, io sono un affezionato ascoltatore Radio 24, praticamente da quando è nata. Bene. Normalmente... sono arrivato a una noia assoluta per quanto riguarda i programmi televisivi. Normalmente ascolto la radio e Radio 24 e Radio Radicale. E quindi? Ultimamente c'è una noia perché sembra che l'unico argomento che si trova da tutte le parti è questa tassazione di Sky. Io ho visto che quando si fa una legge... Quando si fa una legge c'è una discussione, ci sono delle motivazioni. Francamente, se quest'IVA al 10% è stata motivata, sì, credo di aver dalla necessità di favorire lo sviluppo del settore. Sviluppo del settore, però se la motivazione era questa, adesso si è diffusa, basta, chiuso. Invece no, è giusto, non è giusto, ci sta il conflitto di interessi, francamente. Vabbè, questa è la posizione. La radio da tutte le parti viene sentire. C'è discussione, francamente, io a questo punto chiudo la radio e dico vabbè. Mamma mia che noia. Vabbè, Alberto, che dobbiamo dire? Questo è un po' il tema del giorno. Ogni giorno scegliamo un tema e di questi giorni se non vede la TV va bene, ma se compra i giornali non si parla d'altro. Domani parleremo d'altro, come abbiamo fatto ieri, peraltro. Marco Mele, Alberto sostanzialmente dice, ma insomma, se c'era questo privilegio per sviluppare un settore, questo settore è sviluppato, che è quello che ci ha detto sostanzialmente la posizione del governo, basta questo privilegio. È davvero tutta una discussione che si può concludere così? Questo è sicuramente un argomento, perché la PTV si è sviluppata, quindi si può arrivare al 20%. Il conflitto di interessi resta, anche se il governo prende un provvedimento che è giusto, perché comunque favorisce in gran parte, diciamo, un'azienda che comunque è di proprietà del Presidente del Consiglio. Questo però sfugge alla maggior parte in genere dei cittadini, questo fatto, che invece in altri paesi europei sarebbe immediato. Cioè, comunque ci sono aziende che sono favorite anche la RAI in qualche maniera, e sono sfavorite, anche se il provvedimento è giusto, cioè è giusto perché ormai si è sviluppata, forse andava concordato prima, magari concordare un attimo prima sentendo più soggetti, invece è arrivato d'improvviso così, quindi Sky sta anche, deve anche chiudere un bilancio che adesso sarà aggravato di tot milioni di euro in sì. più. E quindi lo anche se l'intenzione è quella, esatto, quello di farlo scaricare sugli abbonati, hanno un reddito, è tutto giusto, gli abbonati di Sky sono in genere con il reddito medio alto, quindi hanno qualche euro in più, insomma. Però secondo me ci hanno anche abbonati che ti stiranno l'abbonamento, magari si abboneranno a media, però in fondo il problema è che sul mercato televisivo non c'è concorrenza, c'è un monopolista da una parte e una posizione dominante sul mercato pubblicitario dall'altro, e per cui un provvedimento del governo, una poche cose che può spostare, risveglia questa discussione latente, no, che c'è sempre. Grazie, ti fermo Marco, perché qui ci dobbiamo fermare anche noi, così come ringrazio anche Marco Crispino, amministratore delegato di Conto TV. In redazione Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli, Giorgio Matè in regia. A domattina.